Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 14. Entrai abbastanza in confidenza con la maggior parte delle ragazze del club. Durante il giorno andavamo in giro a guardare le vetrine e benché i rispettivi magnaccia pensassero a rifornirci di vestiti e di articoli da toilette, ci compravamo anche qualche cosuccia per conto nostro, per lo più negli empori più a buon mercato. Molte delle ragazze erano state vagabonde. Un giorno, mentre sedevamo nel salotto in attesa di cominciare il lavoro, dissi che mi chiamavano Boxcar e spiegai com'era nato quel soprannome. Immediatamente cominciarono anche loro a raccontare storie di viaggi avventurosi sui treni e con l'autostop. Apparentemente la maggior parte di loro era scappata di casa e aveva vagabondato sulla strada per un po' prima di darsi alla prostituzione. Le ragazze del Globe guadagnavano parecchio, eppure non avevano mai un soldo in tasca. Cercavano continuamente di imbrogliare magnaccia. Pare incredibile, ma dovevano rendere conto di ogni dollaro che guadagnavano. In genere, Pollack diceva ai protettori quando avevano preso dai clienti e a meno che non gli allungassimo qualcosa sotto banco, forniva un resoconto esatto di quanto avremmo dovuto consegnare loro. Ma non era sempre Pollack a fare la spia. Qualche volta era una delle ragazze che parlava con il suo uomo, il quale riferiva all'interessato. Insomma, eravamo ben sorvegliate. A volte capitava che un cliente ci desse $5 dicendo: «Tieni piccola, di alla maîtresse che te ne ho dati soltanto 2». Oppure prendevamo un dollaro di mangia e non lo dicevamo. Ma il modo in cui i nostri uomini e il personale della casa riuscivano a tenerci sotto controllo aveva del miracoloso. Quando i clienti ci pagavano, eravamo sole con loro in una stanza chiusa, eppure pochissime ragazze riuscivano a far fessi magnaccia e la direzione per molto tempo. Se imbrogliavi la casa ti licenziavano, se derubavi i clienti e dividevi con la casa ti lodavano. Se riuscivi a farla al tuo magnaccia eri fortunata, ma se non ci riuscivi prendevi un sacco di botte ed era peggio per te. Ciò nonostante le ragazze cercavano sempre di imbrogliare i loro protettori e questi a loro volta mentivano continuamente alle loro donne e le intimorivano con minacce. Alcune delle ragazze che avevano figli da mantenere potevano tenersi 5 o magari $10 in più alla settimana da mandare ai ragazzi. Ogni tanto le ragazze avevano il permesso di mandare un paio di dollari alle loro madri. Sembra incredibile che un gruppo di donne apparentemente intelligenti, che guadagnavano da 50 a $200 alla settimana, non mandassero un centesimo ai genitori e ai figli indigenti, magari ricoverati in istituti. Un pomeriggio, che la polizia ci aveva ordinato di chiudere il locale per qualche ora, perché l'aria si era fatta scottante, io e un gruppo di ragazzi ci eravamo sedute a chiacchierare e avevamo cominciato a parlare dei nostri magnaccia. Marie disse che teneva un protettore soltanto perché al mattino le piaceva svegliarsi accanto a qualcuno che fosse più miserabile di lei. «Vi dirò perché ne tengo uno io», intervenne Lorraine. «So che Pollack non mi ama, ma è gentile e si prende cura di me. Se incappo in una retata e mi ammalo, posso anche non lavorare. Ho fatto anche la puttana da strada e per un anno ho battuto il marciapiede senza un uomo. Che cosa ci ho guadagnato? Mi beccavano continuamente e tutti i miei soldi finivano nelle tasche degli avvocati, dei maneggioni e dei poliziotti. C'era sempre qualcuno che cercava di approfittarsi di me e che mi faceva preoccupare. Credetemi, una puttana se la passa male se non ha un protettore. Pollack mi compra i vestiti e se ho bisogno di qualche soldo da mandare a casa me lo dà. Non devo più preoccuparmi di nulla. Immagino che tutte le ragazze la pensassero allo stesso modo. 2 mesi dopo il mio ingresso al club, la situazione divenne critica. Lavoravo allora nel turno di notte. Le cose peggioravano di giorno in giorno. La città chiedeva a gran voce misure più severe contro il vizio. Avevamo preso l'abitudine di chiudere tra l'una e le 4 del mattino, quando la squadra del buon costume era in giro. Parecchie volte dovemmo scappare sui tetti, ma non ci fu mai una vera e propria retata, fino all'ultimo sabato in cui lavorai alla casa. L'allarme scattò alle 6. Bracciole di maiale aveva visto la Cadillac della buon costume che girava all'angolo, diretto dalla nostra parte. Si spensero tutte le luci. Qualcuno mi prese per mano e disse: «Presto, al passaggio segreto». Le ragazze raccolsero in un fagotto i loro vestiti, poi ci infilammo tutte nel passaggio segreto. Percorremmo la breve salita fino al tetto, lo attraversammo, salimmo la scaletta che portava all'altro tetto e attraversammo anche quello fino alla cupola. Rudy ci venne dietro e si chiuse la botola alle spalle. La squadra del buon costume, formata da 12 agenti, dovette sfondare la porta principale per entrare nella casa, ma trovò soltanto 4 o 5 clienti più o meno svestiti, nascosti negli armadi o sotto i letti. Tutti gli altri avevano tagliato la corda, salvo Pollack e naturalmente Margaret. Una delle regole del gioco era che la maîtresse e il personale di servizio non fossero molestati dalla polizia. In ogni caso, gli agenti capirono dagli uomini che erano ancora in giro e dal disordine delle stanze che non potevamo essere lontani. Erano decisi a trovarci. Uno dei clienti indicò loro più o meno la direzione che avevamo preso e gli agenti, dopo aver pestato un po' sulle pareti senza riuscire a individuare il passaggio, erano andati sul tetto. Gli inquilini dell'edificio confinante ci avevano sentite passare e non avremmo potuto scendere in strada, se non attraverso il loro palazzo. Sul secondo tetto gli agenti trovarono la scala che non avevamo avuto il tempo di recuperare. A quel punto ebbero la certezza di averci in pugno. Da lì potevamo essere arrivate soltanto alla cupola. All'interno della cupola, in uno spazio di 1,5 metri x 2, eravamo pigiati in 10, 9 ragazze più Rudy. Non potevamo respirare e quando gli agenti cominciarono a pestare dal di fuori, Rudy capì che non c'era più niente da fare. Gridò ai poliziotti che stavamo per uscire. Scendemmo dalla cupola con i fagotti dei vestiti in mano. Tornammo nella casa e ci rivestimmo. Gli agenti furono gentili, ridevano e scherzavano e nella confusione generale 4 ragazze e Pollack tagliarono la corda, ma i poliziotti non se la presero più di tanto. 5 ragazze erano già un bel bottino. Scoprii che i commissariati locali e le squadre del buon costume preferivano non arrestare più di 4 o 5 ragazze per ciascuna casa, altrimenti avrebbero dovuto spiegare come mai i bordelli riuscivano ad avere un'attività così intensa a loro insaputa. Ci condussero alla stazione di polizia in Hudson Avenue, dove trovammo altre 15 ragazze che erano state arrestate in quel medesimo distretto. Poi ci trasferirono tutte quante alla centrale. Bill venne a trovarmi alle 11 e mi portò panini e sigarette. «Non preoccuparti, piccola», disse. «È tutto a posto. Ho parlato personalmente al giudice prima di venire qui. E il pubblico ministero è un mio amico». Naturalmente mentiva, come al solito. Già 3 settimane prima dell'arresto mi ero allontanata da lui. Avevo capito subito che se mi lamentavo o facevo i capricci, Bill si prodigava in tenerezze, veniva a letto con me e mi portava a cena fuori. Ma diventava veramente premuroso e sollecito soltanto quando minacciavo di piantare tutto. Non gli importava che andassi con 50 uomini al giorno, purché portassi a casa i soldi. Perciò mi coccolava e cercava di farmi credere che stava risparmiando per consentirmi di smettere un giorno. Ma io tenevo il coltello dalla parte del manico. Non gli avevo dato più un soldo, nonostante avesse minacciato di battermi. Ero troppo robusta per lui, e lo sapeva, ma tentava ugualmente di spaventarmi. Non so che cosa mi trattenga dal romperti la testa per prenderti i soldi, mi aveva detto una sera. Aveva risposto domandandomi se avesse ancora senso cercare di farlo ragionare. La nostra storia è soltanto un'esperienza come tante per me. Mi serviva un pretesto per fare la puttana. Ho cercato di convincermi che eri il mio uomo, ma non lo sei mai stato, né per me né per le altre. Mi chiedo com'è possibile che uomini dotati di un fascino come il tuo, che hanno il potere di eccitare le donne, lo usino soltanto per umiliare le loro conquiste e se stessi. E mi chiedo perché vado avanti in questa storia. Immagino che sia semplicemente per inerzia. Probabilmente ci vuole qualcosa di nuovo che me ne tiri fuori. Non avrei mai immaginato quante e quali novità mi sarebbero capitate di lì a poco, a cominciare dal mio arresto. La permanenza nella stazione di polizia fu un inferno. C'erano parecchie ubriache che ci tennero sveglie tutta la notte. L'indomani, domenica, alle 9 del mattino, ci condussero alla clinica per le malattie venerie, presso la sede centrale della polizia, tra l'undicesima e State Street. Le ragazze che aspettavano di essere visitate erano 45. Secondo le norme emanate dal Dipartimento per la Salute, tutte le donne che venivano arrestate per prostituzione dovevano essere condotte negli uffici di igiene e visitate per accertare che non fossero affette da malattie venere. Quelle che risultavano non infette potevano essere rilasciate dietro cauzione, in genere di $25. Quelle che risultavano infette venivano ricoverate a Lawndale, l'ospedale per le malattie venere gestito dal Dipartimento per la Salute. Metà delle ragazze in attesa di visita erano di colore. Tutte erano nervose, emozionate. A nessuna importava dell'arresto. Il peggio che poteva capitare in tribunale era una multa da 10 o $25. Ogni tanto, molto raramente, qualcuna finiva in correzionale, ma quasi tutte temevano la visita medica. Essere malate significava trascorrere un mese o 6 settimane in ospedale, una prospettiva per nulla allettante. Non avevo mai preso in considerazione l'idea di poter essere contagiata, ma quando la sorvegliante cominciò a chiamare le ragazze del Globe, sentii una stretta al cuore ed ebbi il terribile presentimento che stesse per accadermi qualcosa. Invidiai le ragazze cattoliche che tormentavano nervosamente i rosari e pregavano. Una diceva: «Oh Maria, Madre di Dio, aiutami!» «Dotty Mac» era il nome che Rudy mi aveva detto di dare. Mi sentii come se fosse il diavolo in persona a fare l'appello. La sorvegliante e l'infermiera mi fecero sdraiare sul lettino. Dottor Joseph Sonnenschein, il medico di servizio, aveva l'aria stanca e annoiata, ma fu gentile e delicato. Mi visitò e fece uno striscio per analisi. Poi mi disse di aspettare e io cominciai a provare quella sensazione soffocante che dà la paura senza nome. Attendemmo i risultati dell'analisi per circa 2 ore. Poi, finalmente, la sorvegliante lesse i nomi delle 37 ragazze che erano risultate negative, cioè presumibilmente non affette da malattie venere in fase attiva. Io ero tra le 8 che non furono chiamate e che restarono sedute nella piccola sala d'attesa, silenziose, impaurite e depresse. Il dottor Sonnenschein mi chiamò nel suo studio. Signorina Mac, ho bisogno di parlarvi. Ditemi, quando avete avuto le ultime mestruazioni? Oh, circa 6 o 7 settimane fa, credo, non lo so, non ci ho fatto caso. Perché c'è qualcosa che non va? Mi tremava la voce e non osavo guardarlo. Mi posò la mano sulla spalla e mi parlò con dolcezza. Siete una ragazza malata, Dotty, disse, ma non dovete preoccuparvene eccessivamente. Vi guariremo. Avete la sifilide e una gonorrea in fase attiva. e probabilmente siete anche incinta. Per un attimo tutte le cose che mia madre mi aveva insegnato, le sue tecniche per far fronte a qualsiasi imprevisto, non bastarono a soccorrermi. Mi sentii venir meno e fui grata al dottore che cercava di confortarmi tenendomi una mano sulla spalla. Io, Berta Thompson, la figlia di Martha Thompson, la sorella di Anna e Margaret, io, a cui E.A.O. aveva detto che nulla di terribile sarebbe potuto accadere, io, che secondo Lowell Schroeder ero destinata a compiere qualcosa di grande, non era possibile che avessi la sifilide. Non potevo essere incinta. Conoscevo le tecniche anticoncezionali e A.O. me le aveva insegnate. Ero stata molto attenta. Dico, quando avessi deciso di avere un figlio, il padre avrebbe dovuto essere Franklin Jordan e il bambino sarebbe stato bello come un Cristo, come A.O. Il dottore doveva essersi sbagliato, non era possibile che avessi la gonorrea. Deve essere uno scherzo, mi dissi. Io sono Boxcar Berta, ne ho passate di tutti i colori, non sono una puttana, non sono il tipo di donna a cui capitino queste cose. Il cellulare ci condusse al Lawndale Hospital. Ero come in trance, cercavo di pensare al viso di mia madre, continuavo a ripetermi le sue parole. In questa famiglia non si fanno tragedie. Catherine, la mia amica del Globe, mi abbracciò e disse: Coraggio, piccola, ce la faremo. È la terza volta che vengo a Lawndale e non mi hanno mai tenuto dentro più di 2 settimane. Le toccai la mano con gratitudine, ma non riuscii a parlare. All'ospedale le sorveglianti ci registrarono e ordinarono di fare il bagno e ci diedero delle uniformi. Ci fu consentito di tenere i cosmetici, le scarpe e le calze. Fui ricoverata in isolamento insieme ad altre 5 donne affette da sifilide in fase attiva. Ci servirono una buona cena, poi andai a letto e caddi in un sonno agitato. Quello stesso giorno mi sottoposero 2 volte a un trattamento locale e dovetti fare 3 irrigazioni. L'indomani mattina mi fecero un altro esame microscopico e uno del sangue. L'esame microscopico risultò positivo e quello del sangue, mi dissero, diede un solo segno positivo. La dottoressa June Edmondson cercò di tranquillizzarmi. L'arresto è stata una fortuna per te, Dottie. La sifilide è soltanto al primo stadio e l'esame del sangue ha appena cominciato ad essere positivo. Un solo segno positivo non è per niente grave. Se avessi aspettato altre 3 o 4 settimane, l'esame avrebbe dato magari 4 segni positivi e avresti avuto su tutto il corpo delle eruzioni tipiche del secondo stadio. Sei una ragazza robusta e ti assoggetterò a una terapia d'urto. Dovresti guarire abbastanza in fretta. Puoi avere un bambino perfettamente sano, non c'è motivo di preoccuparsi. Se seguirai le cure scrupolosamente, è probabile che la malattia non danneggi minimamente il nascituro. Mi stupii di non sentire alcun dolore. In capo a me se la gonorrea guarì. Quanto alla sifilide, soltanto le prime 2 reazioni Wasserman risultarono lievemente positive. Gli altri 5 esami del sangue settimanali diedero risultati negativi. Le 6 settimane a Lawndale passarono in fretta. La sorvegliante mi consentì di dare una mano in ufficio, così ebbi qualcosa da fare e non mi annoiai. In genere si pensa che un ospedale per le malattie venere sia un luogo molto triste. È vero il contrario. Noi ballavamo, giocavamo a domino e a dama. Avevamo a disposizione libri, riviste e giornali di ogni sorta. C'era da fumare in abbondanza e ogni giorno le ragazze ricevevano da fuori pacchi di cibarie. Le visite non erano permesse, ma i magnaccia venivano in auto, si fermavano sotto le finestre dell'ospedale e facevano cenni di saluto dalla strada. La maggior parte delle ragazze riceveva lettere e ne scriveva. Ne aiutavo alcune che erano analfabete. Scrivevo le loro lettere e leggevo quelle in arrivo. Tenevo sempre copia della loro corrispondenza. Non cercavo mai di correggere le loro lettere. le lasciavo com'erano, perché i protettori e le amiche potessero trovarle naturali. Tutte le ragazze non vedevano l'ora di uscire dall'ospedale. Tutte si preoccupavano di quello che i Magnaccia facevano in loro assenza. Tutte avevano paura di perdere i loro uomini. Libri ribelli. Libri ribelli.